che libro sotto braccia, camicetta a fiori blu, vuoi fa signorina all'annanza scolo pur tu. Ti piglia sigaretta quando accatta papà, ti mette già un rossetto come vire fa mamma Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più, e vengo apposta per tutti vicino a scuola o Gesù. Tu invece mi rispondi già, ti reveretto proprio a te, per me l'amore può aspettare che n'ha già fa non fa per me. A Lazzarella bondate primavera, quando passa tutti in mattina e già di spicchi di padrina, solo un complimento da papà un pa. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e rire come fa capire che perdo tempo appresso a te. Ma bene uno studente innanzi a scuola o Gesù, ti va sempre più a stretta camicetta a fiori blu, ti piglia quattro schiaffa tutte e vado a papà, ti trovo un biglietto che ha scritto chi lulla Lazzare. Ma Lazzarella come sì, c'è sì caruto pure tu, l'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu lo riesci no, una sera tu lo riesci ma se non vas dove fai segni sì senza parlare. A Lazzarella o tempo come vola, ma tu trovo tutti i mattini e chi ne lagrime sta cuscina, manca una compagnella ti può aiutare. Ma Lazzarella come sì, te sei cagnato pure tu, e ti apri paradiso sì, ma rinda chiesa o Gesù. A Lazzarella o tempo come vola, ma tu trovo tutti i mattini, chi ne lacrime sto cuscina, manca una compagnella da puoi aiutare. Ma Lazzarella come sì, te si cagnata pure tu, e ti prepara di sto sì, ma rinda chiesa o Gesù. Lazzarella, per tuo tempo a te, Lazzarella, Lazzarella, Lazzarella.